Come ti chiami e quanti anni hai? Allora, io mi chiamo Serena Taddei e ho 48 anni. Che lavoro fai? Faccio la farmacista. Da quanto tempo fai questo lavoro? Allora, io mi sono laureata nel 1999, quindi è da allora che faccio la farmacista. Mi sono fermata 3 anni perché ho preso un'altra laurea breve in podologia, però poi ho ripreso. Per cui, diciamo, sono sì, più o meno una ventina d'anni, ecco. Quali sono i tuoi hobby? Allora, i miei hobby sono andare a funghi. A me piace moltissimo conoscere i funghi. E ho fatto il corso per micologo, quindi d'estate, quando riesco, vado molto volentieri. Mi piacerebbe fare sport, ma ne faccio poco, purtroppo. Anche sci mi piaceva, non lo pratico più. E come altre attività mi piace molto stare nella natura e d'estate sicuramente andare al mare. Che aspettative avevi da piccolo sul lavoro? Questa è una domanda bellissima. E, allora, io faccio parte dei figli d'arte, quindi io avevo già una strada abbastanza segnata. Sapevo che probabilmente avrei fatto la farmacista. E io appartengo a una famiglia di farmacisti storica, sia da parte di papà che di mamma. Il mio nonno materno era laureato in chimica e laureato in farmacia. Era venuto a Folgaria negli anni 50 e ha rilevato la farmacia che era in piazza della chiesa. E poi la mia mamma e la mia zia hanno portato avanti questa attività. Dalla parte di papà ho tantissimi parenti farmacisti a Mantova. Hanno delle farmacie oppure hanno gestito dei magazzini farmaceutici. Sì. Che lavoro volevi fare? Sai che a me sarebbe piaciuto tanto fare la maestra. La maestra. Infatti adesso, questo magari non scrivetelo, però io adesso faccio la catechista e mi piace tantissimo. Tantissimo. Perché? Perché il stare coi bambini, con i ragazzi, e spiegare magari delle cose che a me piacciono, perché a me piace tanto conoscere le cose, e dà tanta soddisfazione. Io ho fatto dei corsi sui funghi, e abbiamo fatto un percorso e mi era piaciuto tantissimo. E anche adesso, appunto, come catechista, io proprio mi ritrovo, ecco. Sì, avrei fatto la maestra. Hai mai fatto un viaggio di lavoro? Allora, viaggi di lavoro, ho fatto viaggi, sì, legati alla mia attività. In particolare ne ho fatto uno non lontano, a Sansepolcro, che è in Umbria, e dove c'è una ditta che si chiama Abocca, che produce tutti, diciamo, erbe officinali, con le quali si preparano le tisane, le capsule, eccetera. Ed era stato bellissimo questo viaggio, sì. Poi un altro l'ho fatto invece a Sabaudia, dove c'è la sede della Plasmon, biscotti per bambini, bellissimo. Ci hanno insegnato un sacco di cose, proprio bello. Quali sogni avevi da piccolo? Sogni, tanti sogni. Sognavo di vivere a Mantova, intanto. Sognavo di vivere in città. Invece adesso io sto benissimo in paese, a Folgaria. Sognavo di fare la pattinatrice sul ghiaccio. Ma allora non c'erano i pattinaggi, c'era solo il campetto di costa. Vorresti cambiare il tuo lavoro tornando indietro? Allora, per alcuni versi sì. Mi piacerebbe fare l'insegnante. Per altri invece il mio lavoro mi piace tanto proprio. Mi piace tanto perché soprattutto in questo periodo ho potuto stare vicino alle persone che avevano tante necessità e mi sono sentita utile. Ti hanno condizionato a scegliere il tuo lavoro? Sì, lo dico, sì. Sì. Che liceo hai fatto? Ho fatto il liceo classico. È stato un liceo molto pesante, difficile. E appunto, tornassi indietro non lo so. Perché era bello, però allora c'erano veramente dei professori che facevano a gara per interrogarci tutti i giorni, ecco. Per cui è stato molto bello come liceo, però sicuramente pesante, ecco, non è stato leggero. Racconta la storia della tua vita, cioè tipo un evento. La storia della mia vita, allora, la storia della mia vita, ho vissuto a Folgaria, allora ho fatto il liceo a Rovereto, ho fatto le scuole elementari a Folgaria, ho fatto le scuole medie a Folgaria. Dove le state facendo voi le scuole medie? Le elementari invece erano in piazza, su, dove c'è l'oratorio. E poi ho fatto le superiori a Rovereto, andavo su e giù con la corriera. Poi ho fatto farmacia, quindi a Ferrara. Ah. A Ferrara andavo col treno, no? 5 anni. E lì ho conosciuto mio marito, quello che poi è diventato mio marito. Dopo 2 anni mi sono sposata, siamo venuti a vivere a Folgaria. Abbiamo iniziato a lavorare a Folgaria. Nel 2007 invece siamo partiti per Roma e abbiamo studiato 3 anni podologia alla Sapienza. Siamo tornati indietro, abbiamo iniziato il percorso dell'adozione, abbiamo adottato una bambina e poi da lì siamo rimasti a vivere a Folgaria e siamo felici di vivere a Folgaria. Convinti. Ma perché avete cambiato la farmacia da lì a qui? Perché a volte le cose non vanno come uno pensa. A volte ci sono delle situazioni che tu sogni. Io pensavo nella mia vita che avrei vissuto là sopra e avrei lavorato lì sotto. Per cui invece poi non sono andate così. E quindi quando poi ci sono appunto determinate situazioni è bene spostarsi. E qui mio papà aveva comprato una parte di questo locale, per cui finalmente siamo riusciti a spostarci quest'anno. Sono molto felice, non abbiamo ancora finito di fare tutto il lavoro, però è un sogno che si è realizzato, sì. Sì. 2. Se in una sintesi di 30 secondi ci narra la storia della sua bottega storica, quando è nata e come è venuto la tramandata. Allora, il mio nonno, Ettore Girardi, era un farmacista bravissimo, perché lui prima di tutto era un chimico, ha sposato la mia nonna, loro abitavano a Pergine. A Pergine mio nonno faceva il farmacista presso una farmacia, dove però lui non era il titolare. Quando ha avuto la possibilità, è venuto, ha comperato la farmacia di Folgaria. In che anno? Allora, anno 56. La mia mamma e la mia zia erano piccole, quindi hanno fatto parte delle scuole qui. La possibilità era di andare a comperare o a Riva del Garda o a Folgaria, solo che Riva del Garda era troppo costosa la farmacia, e allora è venuto qua. E quindi hanno vissuto in piazza perché c'era la farmacia, apparteneva a un dottore che si chiamava dottor Valle, che poi è andato in pensione. Quindi il mio nonno con la nonna e le due figlie, Sandra che è mia mamma e Adriana che è la zia, sono venute a vivere a Folgaria. Allora, essere farmacista in un paese è diverso che essere farmacista in città, totalmente diverso. Perché il farmacista in un paese intanto è conosciuto come persona, prima che come farmacista, e in più conosce le persone, conosce il paese, com'è. Per cui il ruolo del farmacista in un paese è un ruolo molto bello, ma anche molto delicato, perché ci sono tanti episodi, tante domande che vengono fatte al farmacista, tante soluzioni magari che dovrebbe provare a cercare, tante problematiche da provare a risolvere, che però non deve dire agli altri, perché ovviamente è un ambiente protetto, cioè le persone del paese si rivolgono al farmacista spesso con l'idea di chiedere proprio un aiuto concreto di spiegazioni o dubbi. E quindi il farmacista è un po', insieme al medico, un punto di riferimento. E a me piace questo. Io ho lavorato a Roma anche per quei 3 anni, facevo la farmacista in una farmacia notturna, dove è tutt'altro l'ambiente. Però la mia impostazione di farmacista del paese mi ha permesso di relazionarmi anche con le persone della città, perché è nell'indole. Ci hanno insegnato, cioè noi siamo nati così, cioè siamo nati in questa realtà, e dobbiamo ricordarci le origini nostre. E è una fortuna poter avere questa giovinezza, questa esperienza di vita a Folgaria, che ci aiuterà dappertutto, perché le relazioni umane che si sviluppano in un paese, soprattutto con un ruolo come il mio, che è quello sulla strada, no? E sono veramente notevoli. Quindi, anzi, io vi dirò che la scelta di rimanere con la farmacia sulla via, su questa via, è stata proprio tanto voluta da me. Non avrei scelto un posto fuori dal centro, perché il centro è il posto delle relazioni e le relazioni sono incontro e una comunità senza incontro non esiste. Quindi i negozi devono essere nel punto dove le persone si trovano, anche per fare chiacchiere di altro genere, mica solo per andare dal farmacista a chiedere un'aspirina, ma possono incontrare un'amica, una maestra d'infanzia, chiunque, capito? Per cui la vita del paese e della comunità è proprio la relazione, sono le relazioni. Grazie mille, ecco. Serena, se avete altre domande? No. Grazie per queste battute conclusive. E poi al volo, l'ultima cosa, questo periodo dove le distanze ci hanno ostacolato, per me sono stati invece, è stato un periodo di fortissima relazione. Al contrario, io l'ho vissuta come fortissima relazione. Voi non so se sapete che facevo i tamponi e sono stati un'occasione per proprio intrecciare nuove relazioni e piangere con le persone che erano magari molto preoccupate, ridere, gioire per la guarigione di persone che non vedevano l'ora di poter uscire dalla loro malattia. Per me sono stati 2 anni di cambiamento mio, che non vedo solo negativi, vedo anche positivi per alcune cose, non da ripetere, per carità, però non tutto è male, anzi. Bene, Serena, ecco, noi saluto, buon lavoro. La ringraziamo. Grazie. Facciamo una fare una foto. Mamma mia, ma questa me la potete mandare? Sì. Certo, molto bene.